Non solo si può aiutare, la Bolognina ha in sé tutte le potenzialità per superare i problemi che affronta, che insomma è una questione di un territorio complicato, come ben sappiamo, ma appunto ricchissimo. Quello che noi stiamo facendo come quartiere, come comune, è mettere in campo tutte le risorse, sia in termini economici, di collaborazione, di progettualità, per fare quella sicurezza urbana integrata che previene i reati, che fa stare insieme le persone, occupa gli spazi in un modo in cui la vivibilità e la correttezza anche dello stare insieme tornino in primo piano. Non ci nascondiamo che ci sono dei problemi endemici, appunto come reati che io non definisco microcriminalità, perché quando poi vengono subiti sulla pelle delle persone, questo termine micro non voglio che assolutamente dia una diminuzione, perché sono dei problemi reali sulla pelle quotidiana delle persone, dei cittadini della Bolognina, che sono dovuti a un fenomeno sicuramente di narcotraffico, di spaccio, di uso e di dipendenza di sostanze, che stiamo rivedendo in città in maniera molto molto forte e molto grave. E qui noi scontiamo anche una ipocrisia della legislazione nazionale e di come anche questo fenomeno, per approcciarsi, per aiutare anche le persone che sono dipendenti, debba essere affrontato in una maniera non securitaria, ma su un lato davvero anche sanitario. E quindi questo non può essere lasciato solo nelle mani delle amministrazioni locali, come anche il lavoro delle forze dell'ordine, con le quali noi collaboriamo costantemente in una maniera ottima, ma è chiaro che se persino il questore dice che manca l'organico e se il governo, quando manda l'organico a Bologna, lo mette invece per fare attività amministrative e non per presidiare il territorio, è chiaro che forse il governo ha un problema con Bologna. E quindi Bologna non se lo merita, io voglio denunciarlo ancora una volta, perché il lavoro delle forze dell'ordine rispetto all'investigare, il reprimere, il trovare i reati è fondamentale, è una parte, come dicevo, ma vanno messi nelle condizioni di poter lavorare bene. Un'ultima cosa, anche le forze dell'ordine, stiamo dialogando con loro e è importante che loro stesse anche dialoghino con la cittadinanza per far capire anche il gran portato del loro lavoro e quello che succede nei territori, che è quello che facciamo noi come istituzioni, insomma, è bene che anche le forze dell'ordine aiutino in questo senso.